Avvocati di Giovanni Capuano. Dovremmo abituarci, perché oggi venerdì 5 agosto, sono le 14.00 e 30 secondi, giornata storica per il calcio italiano. Dopo l'Inter anche il Milan passa sotto il controllo cinese, questa volta dovrebbe essere tutto vero. 800 24 00 24, vi dico già che dopo il traffico alle 14.15 apriamo un'ampia pagina dedicata alla chiusura della trattativa con molti retroscena, una trattativa davvero che ha vissuto dei colpi di scena nelle ultime 72 ore. Cercheremo di raccontarvele insieme a Marco Belinazzo, ma già da adesso vi invito a chiamare, perché apriremo un filo diretto con Marco Belinazzo e con tutti voi, 800 24 00 24, per cercare di capire tutto su che cosa è successo e che cosa succederà del nuovo Milan, che da oggi è stato acquistato dalla Sino Europe Investment Management Chengxing, che è la società veicolo di cui fanno parte una serie di fondi e società. Dovrebbe esserci un fondo di Stato cinese per lo sviluppo degli investimenti, nonché Yongon Li, un manager che ha condotto sotto traccia la trattativa, e poi altri investitori che al momento sono ancora sconosciuti e che in 72 ore sono riusciti a spodestare la cordata di Galatiotto e Gancikov. E poi Fosun. Ancora questa mattina Fininvest smentiva l'esistenza di una trattativa con Jorge Mendes e poi il ritorno di Mr. B nelle ultime settimane con le sue offerte. Insomma, davvero tanti retroscena di cui parlare. 800 24 00 24, tutti in attesa del comunicato ufficiale Fininvest, mentre in Cina un comunicato è già stato reso noto. E poi l'altra notizia della mattina. FC Porto. And let's see. Ullala, they'll play against AS Roma. Dunque la Roma ha pescato il Porto. Nell'urna del playoff di Europa League non c'è il Manchester City, che era evidentemente la squadra più temuta e che è stata accoppiata ai romeni dello Steaua Bucarest. È andata benino, né bene né male. Roberto Renga, ciao Roberto. Sì, buongiorno a tutti. Poteva andare meglio, poteva anche andare peggio. Sì, io infatti ci sto, perché poteva andare meglio con l'Ajax. Poteva andare peggio, secondo me, a parte il City, che comunque è ancora una squadra da completare, da fare, non è ancora la squadra di Guardiola. Secondo me poteva andare peggio col Villarreal. Del Borussia non lo so bene perché non lo conosco così a fondo, ma comunque andare in Germania è sempre un grosso problema, anche se in Germania ancora il campionato quest'anno partirà in ritardo. Ecco, col Porto si gioca. C'ero, sai, nell'82 quando la Roma venne eliminata dal Porto. Era la Roma di Lidholm e si giocava nel vecchio stadio, non al Dragao. E lì imparai a conoscere questo grandissimo club, perché è veramente un grandissimo club. Poi ci ha messo le mani Mendes, tanto che adesso tutti quelli che pensiamo che siano affari clamorosi del Porto in realtà sono affari clamorosi suoi. È comunque una bella squadra. La cosa più singolare, secondo me, è che l'allenatore, come sai, è Spirito Santo e che viene nella città del Vaticano. Sì, Nuno è Spirito Santo, allenatore nuovo che deve cambiare pelle al Porto, che in realtà, almeno per i livelli abituali del calcio portoghese, oggi è una grande in difficoltà. Non vince il campionato dal 2013 ed è uscito abbastanza deluso dalle ultime esperienze. È un Porto che è riuscito a tenersi, almeno fino al momento, i suoi gioielli. È, io credo, nella scala dal Manchester City all'Ajax, cioè la più pericolosa, la meno pericolosa delle cinque avversarie che avrebbe potuto pescare la Roma, io credo non si trovasse al secondo posto. Penso sarebbe stato molto peggio Villarreal, e dall'inverno scorso nutro grandissima diffidenza nei confronti del Borussia Mönchengladbach. È andata bene non averlo pescato. Ma sì, la pensiamo uguale. Io non so adesso ancora come giocherà il nuovo Porto. I giocatori non sono più quelli di prima, e comunque Mourinho non c'è più, ricordiamolo, perché Spirito Santo è un altro tipo di allenatore, però alcuni giocatori ci sono ancora. Tra l'altro c'è Pato. Non c'è Pato nel... Pato era nel Villarreal. Il portiere Casillas. Casillas. C'è ancora un Pereira. C'è un altro Danilo. C'è quel Héctor Herrera che voleva il Napoli a tutti i costi. Il messicano che è un signor giocatore. Brahimi non so in che condizioni è, perché l'anno scorso ha giocato poco. C'è Varela. E poi c'è il centravanti. Il centravanti a Boubacar è buono. È il camerunense. È certamente una bella sfida, Giova poi ricordare, noi lo facciamo ma non per portare iella, che negli ultimi 6 anni, quelli della rivoluzione di Platini, soltanto una volta le squadre italiane sono riuscite a superare l'ostacolo del preliminare di Champions League. È capitato al Milan contro gli olandesi del PSV, poi soltanto delusioni. Questo per dire che non bisogna farsi illusioni. 800 24 00 24, se volete commentare insieme a noi anche questo, insieme alla notizia di giornata che è la cessione del Milan ai cinesi. Credo, Roberto, che poi in fondo quasi tutto dipenderà da come ci arriva la Roma a questo preliminare. Sì, e ancora non sappiamo bene, ovviamente. Ecco, io stavo pensando che in precedenza il Napoli e la Lazio, per esempio, non hanno sfruttato, no, la possibilità dei preliminari non comprando. Il Napoli aveva i soldi per farlo, la Lazio un po' meno. La Roma la giustifico perché, come sai, è in difficoltà, no, in questo momento, per cui non è che sto a criticarla. Il problema è la preparazione. Io, sinceramente, dovendo fare i preliminari, non sarei andato in America, mi sarei preparato... come ha fatto Sarri, per esempio, no? Come le vecchie preparazioni, giocare con i boscaioli, con i camerieri, eccetera. Anche se ti devo dire che ho visto la partita, l'ho vista quella con Liverpool, ho visto una Roma che sta bene in avanti, gli attaccanti stanno bene, sta benino a centrocampo e sta male in difesa, a parte il portiere che mi è sembrato molto buono. Però da qui al... quando giocheranno? Il 17, se non sbaglio, no? Non sì, si gioca il 16-17 agosto, adesso io la data esatta 17, non ce l'ho. 17 però. mi sembra 17, è bene avere un giorno in più per la Roma, perché in questo momento stanno arrivando anche i difensori e quindi avrà la possibilità Spalletti di mettere insieme una difesa che sia degna di una partita di questo tipo. Questa è la partita migliore, se non sbaglio, insomma, almeno dal mio punto di vista, no? Di tutti questi preliminari. È una partita da gironi, no? Sicuramente da gironi più che da preliminari. La Roma deve presentarsi bene, al massimo. In questo momento ha due giocatori sicuramente in forma, Zeko, che ha ritrovato il sorriso, e Allison. Il resto è una squadra che ancora può crescere. Sì, c'è poi il dubbio della difesa. Io ho qualche dubbio su Vermaelen, giocatore che negli ultimi 2 anni ha giocato pochissimo e che mi sembra oggettivamente sopravvalutato intendo dal punto di vista economico, se i termini dell'intesa alla fine saranno intorno ai 12 milioni di euro. Però succede così quando sei costretto in emergenza ad andare a cercare qualcuno che abbia caratteristiche di essere pronto subito anche per il palcoscenico della Champions. Io però non so in quali condizioni fisiche arriverà, perché sai, lui ha giocato 11 partite in 2 anni a Barcellona, che lo pagò 15 milioni, quindi più o meno il Barcellona, nonostante tutto, ci ha rifatto gli stessi soldi, e però non ha giocato perché risentiva ancora della vecchia operazione al tendine d'Achille, perché fu quella che lo frenò, perché Vermaelen è un signor giocatore. Poi dopo però sono 2 anni che se ne sono perse un po' le tracce, a parte la nazionale. Agli europei, prima che si fermasse, l'avevo visto bene. I dubbi sono legati alle sue condizioni fisiche, però in questo caso la Roma ha una carta da giocare, Luis Enrique. Cioè la Roma avrà chiesto a Luis Enrique: dici come sta fisicamente, non tecnicamente, perché quello io non dico niente. Però fisicamente, come mai l'hai fatto giocare così poco? Ecco, questa è una domanda che gli avranno rivolto. Sempre che Lucio Enrico abbia voglia di dare qualche consiglio alla Roma. Vi do gli altri sorteggi, almeno quelli che riguardavano le cosiddette big. Vi ho detto di Steaua, Bucarest, Manchester City, Porto Roma, Ajax Rostov, Young Boys, Borussia Mönchengladbach e Villarreal Monaco. Queste sono le 5 sfide che porteranno nei gironi della Champions League. Poi c'è l'Europa League, dove il Sassuolo nel playoff se la vedrà, prima partita in casa contro la Stella Rossa. Sassuolo che ieri ha, come dice Di Francesco, compiuto qualcosa di straordinario. Abbiamo fatto qualcosa di storico passando già il primo turno, e questo per noi è importante. Però quello che io voglio dai miei ragazzi è che non si accontentino. Io non mi accontento, e l'obiettivo è quello di poter andare alla fase gironi, al di là dell'avversario che andremo ad affrontare, difficile che sarà, perché ritengo che dopo, una volta arrivate ai playoff, troveremo sicuramente squadre impegnative. Ieri ha deciso tutto o quasi Domenico Berardi, autore di una doppietta. Sapevamo che era una partita difficile questa e siamo riusciti a portarla a casa, e era quello che volevamo, perché avevamo raggiunto un sogno, ci crediamo ancora, volevamo portarlo a casa e abbiamo vinto e siamo contenti. La cosa mi sembra confortante, Roberto, dopo aver visto le prime due prove del Sassuolo in Europa, è che la squadra di Francesco ha voglia di farla, questa Europa League, cosa che spesso è mancata alle nostre compagini ad agosto impegnate nei preliminari. Sì, è vero, si sono preparati per questo. Hai notato che non hanno fatto molte amichevoli, e queste erano le prime partite vere, però devo dire che la volontà c'era, a differenza delle altre squadre italiane, anche se ultimamente ho visto che c'è un maggior interesse, cioè piano piano è entrato nella testa dei tecnici e dei dirigenti italiani il fatto che se noi andiamo male poi perdiamo le squadre di Champions League, e senza i soldi della Champions League non si va avanti, quindi tutto il movimento frana. Però il Sassuolo è un'altra cosa, il Sassuolo si vede che ha voglia di giocare, e tra l'altro il primo gol di Berardi sembra facile perché l'ha fatto lui. Hai visto come l'ha messa di sinistro, lì nell'angolo, al volo? Questo, ecco, devo dire che verrà ancora convocato con l'Under 21. Secondo me ci siamo ormai. Credo che Ventura dovrà farci i conti, ma penso che un anno fa, anzi so che un anno fa di questi tempi anche Conte pensava di poterlo integrare rapidamente nel gruppo e portarlo magari all'europeo. Poi l'ultima non è stata certamente la migliore stagione di Berardi, forse ha ragione lui, Berardi, ad aver scelto di restare ancora un anno al Sassuolo, potendo tra l'altro fare anche l'esperienza europea per provare a completare la sua maturazione. Oggi la notizia, intanto, è arrivato il comunicato ufficiale dei Fininvest sulla firma del preliminare di vendita alla cordata cinese, che ricordiamo non è quella di Galatioto e Gancikov, ma dopo il traffico alle 14.15 vi racconteremo tutto di questa intesa storica che chiude l'era di Berlusconi, e lo faremo insieme a Marco Bellinazzo. Roberto Renga, volevo sapere da te che impressione fa, detto che da due anni a questa parte è la terza volta che lo annunciamo, però questa volta è la volta buona. Io quando ho visto la notizia, anzi me l'hanno data in diretta, quando ho sentito la notizia un po' mi sono emozionato, perché c'ero quel giorno all'Arena quando arrivò Berlusconi, arrivarono i giocatori del Milan con gli elicotteri e la cavalcata delle Valchirie, andai a pranzo a casa di Silvio, ho vissuto quel Milan, era un Milan perfetto, un Milan di Sacchi, no? Milan degli olandesi, Milan di Baresi, era un Milan in cui tutto filava alla perfezione. E io sono stato così fortunato da seguirlo, e il consiglio che darei ai cinesi è di studiare quel Milan e di cercare di ripetere quelle imprese. Sì, intanto si legge dal comunicato: il contratto prevede che con il signing, quindi la firma che è stata messa, gli acquirenti mettano a disposizione una caparra a conferma degli impegni assunti pari a 100 milioni di euro, di cui 15 contestualmente alla firma e 85 entro 35 giorni. E con questo si spiega forse anche perché ieri sera il Milan abbia chiuso per Gustavo Gomez pagandolo subito, senza più ricorrere a formule di prestito con diritto obbligo di riscatto. Siamo in attesa di capire poi chi gestirà il Milan nei prossimi mesi, Roberto, se Adriano Galliani o qualcun altro. E questo è un problema, sai, è il problema che mi ero posto anch'io, perché nell'Inter, no, in cui sembra adesso che, no, sembra, sicuramente c'è una società solidissima, io non riesco a capire, non solo io, anche Mancini mi sembra, chi comanda Toir, comanda ancora Moratti che è il consigliere, cioè gli ex, perché i nuovi ancora non ci sono, e questi momenti di passaggio sono sempre difficoltosi. Poi però se arrivano i giocatori, l'allenatore adesso c'è, una squadra di base nel Milan c'è, attenzione, perché non possiamo dire che il Milan sia così scarso, per esempio la difesa è molto giovane, molti italiani, quindi un'idea c'è. Se mantieni Bacca, che prima c'era, doveva sacrificare, il Milan sembrava che dovesse sacrificare il proprio giocatore migliore, se lo tiene, insomma, mi sembra che già il Milan, se riesce a capire chi comanderà, che il Milan ci sia. Sì, è già un passo avanti. Grazie Roberto. Grazie a voi. Grazie Roberto Renga. Adesso abbiamo il traffico. 800 24 00 24, facciamo la storia dell'accordo che questa notte ha portato il Milan da Silvio Berlusconi e Fininvest ai cinesi. Con qualche retroscena cerchiamo di capire che cosa succede. Mi dite chi vi aspettate che gestisca la nuova era? Se ancora Adriano Galliani o se con oggi si è chiusa definitivamente la pagina del vecchio Milan? 800 24 00 24. Io penso di sì, che sia giunto il momento di passare la mano, perché sono 30 anni e 30 anni sono tanti. Tutti convocati. Convocati. Allora, 10 minuti fa è arrivato anche il comunicato Fininvest. Il presidente Silvio Berlusconi ha approvato il contratto preliminare firmato dall'amministratore delegato di Fininvest Danilo Pellegrino e da Han Li, rappresentante di un gruppo di investitori cinesi, relativo alla compravendita dell'intera partecipazione, pari al 99,93% detenuta dalla stessa Fininvest nell'AC Milan. Seguono poi nomi, cognomi e specifiche, quelle che si possono mettere in comunicato su che cosa è stato firmato. Marco Bellinazzo, ciao. Ciao, ciao Giovanni, buongiorno. Oh, finalmente, comunicato finalmente che chiude due anni di tormentate vicende. Chiude un'era a 30 anni dall'acquisto del Milan da parte di Silvio Berlusconi. Non c'è ancora il closing, lo dico sorridendo, sto considerando tutto quello che è avvenuto, come ricordavi, in questi due anni. Il closing è annunciato per la fine dell'anno, per novembre, novembre del 2016. Il closing è previsto per novembre. E si parla, insomma, di una comunicato in maniera ufficiale, di una valutazione del Milan, inclusi i 220 milioni di debiti, di 740 milioni, più l'impegno finanziario che si sarebbe assunto questo consorzio, che si è assunto di investire in tre anni 350 milioni. Quindi è vero che non la valutazione del Milan è più bassa, ma si arriva a cifre sopra il miliardo di euro. Sono somme che una parte, naturalmente, di 500 milioni andranno a Fininvest, l'altra parte finiranno nel Milan per rafforzare questo club che diventa cinese al pari dell'Inter. Quindi avremo il derby tra Suning e Milan cinese, e però non tutto è chiaro ancora su quella che è effettivamente la compagine con sì, un giallo perché c'è il nome di questo di questa company Sino Europe Sport Investment Management Changsing, che è il veicolo, il, no, la società costruito che è stata per fare creata per fare l'operazione. Poi si fanno due nomi: Aixia Capital, un fondo di Stato cinese per lo sviluppo e gli investimenti, e Yongon Li, presidente della Management Company, tra i promotori del gruppo. Questo si legge nel comunicato. La domanda che fanno i tifosi del Milan, che fino a questa mattina hanno letto altri nomi, è: chi sono questi e che fine hanno fatto gli altri? Quello che abbiamo raccontato proprio qualche giorno fa con te, insomma, e con Carlo Genta, e cioè sulle vere ragioni che avevano portato a chiedere un ulteriore slittamento, quindi la fine dell'esclusiva, cioè non tanto questioni di problemi burocratici connessi all'espatrio della valuta, perché appunto non mi sembrava complicato esportare i 15 milioni che servivano come caparra, che verranno versati ora come caparra, ma per problemi seri che si sono verificati all'interno della cordata. E tant'è che è sparito per esempio il nome di Galatioto, Galatioto che era l'intermediario, colui che avrebbe dovuto appunto siglare il contratto per questo consorzio, non c'è più, come non c'è più il nome di Gancinkov, che era il suo rappresentante in Italia, e colui che avrebbe dovuto avere la carica di amministratore delegato del nuovo Milan. E ora verificheremo, e appunto c'è stata una vera e propria modifica di quello che era l'assetto di questa cordata. Sono usciti dei soggetti che ne facevano parte, non c'è più per esempio il nome di Wu, il nome di Cheng non viene fatto, si parla di altri soggetti che operano nel settore finanziario e in quello industriale, che significa poi tutto e niente, i quali verranno evidentemente resi noti successivamente, ma quel che conta è che il governo cinese ha un impegno diretto, perché l'unico nome, come ricordate, che viene fatto è quello di questo fondo Aixia Capital, che è un fondo che dipende direttamente dal governo di Pechino. E se vogliamo, questo è molto più coerente con tutte le attività che erano state compiute in questi mesi da società pubbliche e private cinesi nell'acquisire club in giro per l'Europa, cioè un'attività diretta, non avevano bisogno di intermediari, tanto più di un intermediario americano, visto che tra l'altro diciamo, c'è una grande competizione a livello globale in questo momento sul calcio tra Cina e Stati Uniti. Dobbiamo capire, Giovanni, quello che è successo, però un punto fermo finalmente insomma è stato sì, scritto, è stato messo. Vincolanti. Oh, chiede un amico che scrive, vi aspetto, sms whatsapp 349-238-6666 oppure se avete domande 800-24-0024, ci sono già Moreno e Gerardo che adesso coinvolgiamo. Scrive un amico, si evince che il Milan viene acquistato a 500 milioni più i debiti, quindi alla fine vale più o meno come l'Inter. Sì, vale 150 milioni in più rispetto all'Inter, se guardiamo diciamo l'operazione fin qui portata a termine, che è fatta sulla base di una valutazione però dell'Inter, del 100% dell'Inter, più debiti di 600-650 milioni, insomma, quindi un pochino, un filino di più, salvo il fatto, ripeto, che Berlusconi è riuscito a strappare questo impegno finanziario, che se vogliamo è anche un interesse di questi investitori cinesi, i quali hanno chiaramente un'esigenza ora in questo momento di rilanciare il club per portarlo in Europa, e sarà interessante capire qual è, ripeto, la compagine poi nella sua interezza, anche per capire ovviamente le disponibilità economiche, se sono o meno paragonabili a quelle di Suning. Però il fatto che ci sia di mezzo il governo cinese con un fondo, insomma, apre scenari molto promettenti. Sì, qualche garanzia dovrebbe darla. Moreno, ciao, buon pomeriggio. Sì, buonasera. Dai. Io volevo intervenire appunto sul discorso del Milan, perché voi avete fatto una serie di illazioni nei giorni scorsi, prendendo spunto da siti sconosciuti cinesi dove dicevano che non si fa più niente, che è andato all'aria tutto, eccetera, che non c'è niente di chiaro. In realtà è il contrario. Berlusconi aveva fatto un accordo ben preciso, incassando molti più soldi di quelli che ha incassato l'Inter nella serie della vendita di Moratti, con un impegno ben preciso da parte degli acquirenti di investire per mantenere il club a un certo livello. E voglio dire, e quindi? Voi avete sempre criticato il Milan perché non vale niente, perché la squadra non c'è, non si capisce bene. In realtà, se voi guardate il contratto che è stato fatto... Moreno, mi sembra che hai le idee un po' confuse tu, però. Siamo su due piani diversi. Le critiche a come viene gestita la squadra del Milan negli ultimi anni continuiamo a farle. Le facciamo anche dopo la borsa con chi si occupa di mercato. E sono un discorso. E mi pare che quello che è successo oggi non faccia altro che confermare quello che noi da tre giorni raccontiamo, e cioè che la vecchia cordata cinese, così come era arrivata a un passo dalla firma, semplicemente non c'è più perché si era dissolta. Hanno firmato altri soggetti, Moreno. E questo è quello che è successo. Oggi non sono andati Galatioto e Gancikov a firmare, chiaro? Quindi non abbiamo preso illazioni da siti cinesi sconosciuti, che peraltro sono stati rilanciati anche da altre testate importanti altrettanto. Sempre da spunti presi sui vari siti. Sì, per carità. Cioè, vabbè, rimaniamo coi piedi per terra. Quindi, secondo te è andato tutto come ci è stato raccontato negli ultimi 10 giorni? Va bene. Marco? Beh, no, diciamo che io, guarda, ieri avevo ricevuto due telefonate, racconto questo particolare, tra l'altro dimostrano anche come sia stato difficile seguire tutta questa trattativa. Da due fonti, ne abbiamo parlato prima quando ci siamo sentiti, Giovanni, una che mi diceva che la cordata cinese è sparita e l'altra che avrebbero firmato oggi. Io ho cercato di fare le verifiche, stavo facendole anche questa mattina, necessarie verifiche, e in qualche modo con quello che è successo si sposavano queste due indiscrezioni, anche se sembravano apparentemente contraddittorie, proprio perché i vecchi cinesi in qualche modo non ci sono più e gli altri in realtà hanno firmato oggi. Sono state scritte e dette tante, troppe cose su questa vicenda, alla fine invece è andata avanti con le sue trattative, c'è stato sempre da parte nostra insomma il raccontare che c'era ottimismo sulla chiusura di questa trattativa, alla fine si è conclusa bene, diversamente da come sembrava in un primo momento, nel senso che, come diciamo, appunto gli acquirenti in gran parte, se non in totalità, ma in gran parte sono diversi da quelli che inizialmente dovevano acquistare il Milan. E l'ultima cosa è del gruppo Fosun, di cui si è scritto insomma in questi giorni. Quello che possiamo raccontare è che Fosun effettivamente ha incontrato Fininvest prima dell'esclusiva con Galatioto, c'è stato un incontro non tra Mendes e Berlusconi in cui, diciamo, ci si è guardati, alla fine un incontro esplorativo, Fosun ha deciso di non andare avanti e a questo punto insomma però dobbiamo guardare più a quello che è accaduto, a quello che accadrà, credo che a tipo ti interessi di più. Sì, tanto possiamo anche raccontare che nelle ultime due settimane Fininvest ha ricevuto un'altra offerta per il Milan, senza stare a raccontare di chi, non per la totalità, ma per una forte maggioranza, offerta respinta. Carmelo. Sì. Dai. Io sono rimasto meravigliato dal fatto che la capitale morale dell'Italia non abbia più una squadra italiana. Pure a Milano ci saranno tanta gente che hanno i soldi. E evidentemente non abbastanza per fare il calcio ai livelli di oggi, Marco. Assolutamente, assolutamente sì. Chi ha presentato insomma l'altra offerta, lo dico io, insomma, è un nome già noto, cioè Mr. B, e la Fininvest ha ritenuto di non perseguire questa strada. L'offerta è stata presentata dopo che è scaduta l'esclusiva per le ragioni che abbiamo detto. Il calcio di oggi sì, è un calcio globalizzato in cui serve creare strutture come dire, industriali per essere a certi livelli, e evidentemente le vecchie gloriose famiglie di Milano, Moratti e Berlusconi, che hanno fatto la storia del calcio italiano e non solo, insomma, non avevano più queste risorse o comunque la volontà di impegnarsi su questo fronte. Marco da Siracusa. Marco. Buongiorno, però allo stesso tempo è molto triste che una Milano calcistica ha le due squadre proprietarie delle grandissime aziende cinesi. Però Marco, per carità, poi se volete 800240024 andiamo avanti a parlarne, ma anche Manchester ha due squadre che sono di altissimo livello, una storica, e che non sono proprietari di inglesi, non sono proprietari di imprenditori di Manchester. Però Marco, dai, Marco da Siracusa. Volevo difendervi perché sentire che un vostro ascoltatore dice illazioni non si può sentire, vi faccio i complimenti. E un'ultima considerazione sul mercato della Juventus, è da 9,5, se vendesse Pogba sarebbe da 10. Grazie. Sì, ma l'ha venduto, Marco, lo venderà. Ascolta, chiede un amico perché il 99,93% e non il 100%, perché il resto è in mano ai piccoli azionisti che rimangono dentro il Milan. Poi 349-238-6666, domanda per Bellinazzo: l'impegno dei cinesi vale 500 più 300, ovvero 800 milioni. Quanto deve diventare il fatturato del Milan per far diventare l'investimento remunerativo? Beh, diciamo che in questo momento senza Champions per due anni è sceso intorno a 200 milioni e si dovrà fare di tutto per essere competitivi per raddoppiarlo nel giro dei prossimi 5 anni, ma per quello servono tanti investimenti, servono idee chiare. Mi auguro che questo consorzio, soprattutto i dirigenti che guideranno il Milan, e vedremo quali saranno, abbiano le idee chiare su questo, insomma, e abbiano i fondi per portare avanti i progetti che non riguardano soltanto l'acquisto di campioni, ma anche lo stadio, anche la rete commerciale, insomma tutto quello che ci hanno insegnato purtroppo altre società a essere ormai l'ABC del calcio di oggi, ma un ABC inevitabile se si vuole tentare di competere a certi livelli. La Juve si è lanciata su quella strada, è tempo che anche società come l'Inter e Milan lo facciano nel più breve tempo possibile. L'ultima, abbiamo meno di un minuto, sì. Stiamo già sforando sulla borsa, chiedo scusa: come si rapporta il fair play finanziario con gli investimenti promessi al Milan? Antonio da Milano: 350 milioni di euro nell'arco di un triennio, di cui 100 subito. Milan, che appena metterà piede in Europa, sarà di fatto sotto sanzione. Beh, quei soldi, diciamo, finiranno, immagino, insomma, come aumenti di capitale del club, per cui non avranno un impatto diretto sul finanziario. Le norme sono quelle che riguardano appunto il conto economico. Il Milan non è messo benissimo da questo punto di vista, però non è sotto sanzione per esempio come l'Inter, e quindi immagino che ci siano tutte le possibilità per la nuova proprietà di andare a Nyon e concordare una sorta di piano di rilancio del club con delle deroghe anche alle attuali normative, agli attuali limiti, per cui magari il Milan avrà un maggiore spazio di manovra, insomma, per rilanciarsi. Grazie Marco. Grazie a voi, a presto. Grazie Marco Berinazzo, Borsa. I soldi vengono o dalla Cina o dal petrolio. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Quattro magliette, due camici, un vestito, tre paia di scarpe e i libri. Cosa metto in valigia? Sono Alessandra Tedesco, la vostra cacciatrice di libri. In estate gli appuntamenti con i consigli di lettura si moltiplicano. Dal lunedì al venerdì alle 23.45, il sabato e la domenica alle 10 del mattino e la tradizionale puntata del sabato alle 6.30 e in replica alle 22. Vabbè, non ci avete capito niente, non avete preso appunti? Niente paura, trovate tutto su radio24.it. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti Convocati. Pronto per questa nuova avventura? Sì. Hai parlato con Sarri? Hai parlato con Sarri? Certo. Gli obiettivi era che sei a Napoli. Vincere, no? Questo era Zielinski, che è arrivato a Napoli, mentre ora si attendono le mosse del Milan sul mercato. La prima l'abbiamo vista ieri sera con Gustavo Gomez, 800240024. Chiedo un amico, ci possiamo aspettare grandi colpi da parte del Milan già in questa sessione di mercato? Mario Giunta da Sky, ciao Mario. Ciao, buon pomeriggio. Cosa rispondiamo all'amico? Il Milan adesso ha a disposizione 15 milioni di euro, altri 15 milioni di euro, quindi ci dobbiamo aspettare qualcosa anche di importante. Spiego perché se nei giorni scorsi avevamo parlato di un Galliani che comunque rimane a guidare il mercato del Milan da qui al 31 di agosto, che poteva muoversi con prestiti, con diritto di però senza avere grossa capacità economica, sì, e senza ad esempio l'obbligo, cioè qualcosa che avrebbe vincolato, esatto, la futura diritto, proprietà. Adesso ho visto che poi ha questi 15 subito, 85 arriveranno quando il mercato sarà chiuso, adesso si possono anche intraprendere vie come il prestito oneroso con il famoso obbligo di riscatto, che è un trasferimento a titolo definitivo, ormai lo sapete, mascherato e posticipato di qualche mese, ma che comunque nel calciomercato attuale è sicuramente una formula gradita da molte società. Ecco. Quindi io provo a banalizzare, Galliani potrà lavorare come ha lavorato l'anno scorso l'Inter, sapendo che poi da metà settembre in realtà i 15 milioni diventeranno 100 e quindi ci sarà modo di saldare poi tra gennaio e l'anno prossimo, di saldare qualunque tipo di investimento. E quindi attenzione, è vero che subito arrivano solo 15 milioni, ma non necessariamente sarà un mercato low cost da qui al 31 agosto. Un'operazione potrebbe riprendere quota come quella di Cuadrado, è un'operazione che adesso in questo momento il Milan dal punto di vista economico può sostenere senza alcun tipo di problema. Questo sicuramente farà felice Vincenzo Montella e farà felice Adriano Galliani, perché è una svolta epocale non solo per la storia del nostro calcio, ma è una svolta per quanto riguarda l'attualità, una svolta per il mercato del Milan. Secondo te quali saranno le priorità su cui si muove il Milan? Anche perché il tempo è comunque poco, oggi è il 5 agosto, mancano 3 settimane. Ma soprattutto perché poi il campionato inizia a 2 giornate, si giocheranno con il mercato aperto, quindi è veramente strettissimo il tempo. Un attaccante esterno, perché Montella lo vuole, ecco perché ti ho fatto il nome poco fa di Cuadrado. A questo punto bisognerà capire anche in difesa se ci saranno altre mosse, ed è probabile che ci saranno altre mosse in difesa, perché non credo che Gomez sia l'unico difensore che a questo punto prende il Milan. No, anche perché se tu hai a disposizione un certo budget per fare il mercato, puoi anche scegliere dei profili diversi. Uscendo dal Milan, diceva prima un amico, se vende Pogba, mercato Juve da 10, credo sia davvero questione, noi anche questo lo diciamo ormai da un paio di settimane, questione di ore. Sì, ormai ci prendono anche in giro quando diciamo questione di ore per Pogba, ci si scherza su. Però dovete immaginare, e credo che la gente ormai lo sappia, che è il trasferimento più importante della storia del calcio e che ci volevano veramente tempi tecnici per chiuderlo, per firmare i contratti. E credo che oggi, da quello che sappiamo, oggi potrebbe essere la giornata decisiva. Già ieri a Torino gli avvocati stavano veramente concludendo la trascrizione degli ultimi documenti, quindi oggi potrebbe essere una giornata importante per Pogba, anche perché poi, parliamoci chiaro, lui lunedì teoricamente dovrebbe presentarsi come giocatore della Juventus a Binovo e non credo che succederà questo, e credo che oggi appunto, o comunque massimo domani mattina, si risolva tutto. Sì, anche perché insieme a 13 milioni di euro più diritti d'immagine, Pogba in quest'estate ha guadagnato anche delle ferie particolarmente lunghe. Sì, prima di salutarti, un'ultima domanda. Sorteggio con il Porto spingerà la Roma a fare qualcosa di diverso da quello pensato sul mercato subito, anche prima del preliminare? Prima del preliminare non credo. La Roma stringerà quello che è in questo momento l'ultimo obiettivo pre-partita con il Porto, che è Vermaelen, con il quale c'è già un accordo di massima e adesso si sta lavorando con il Barcellona. Probabilmente, qualora poi passerà il preliminare, la Roma investirà avrà la voglia e la forza sul terzino destro che tanto manca, perché l'idea di Spalletti è quella di avere Florenzi quando tornerà Rudiger, però è un po' pochino, e allora probabilmente sì, con i soldi del preliminare si andrà a prendere un altro terzino destro. Flash, una domanda da Matteo: il Milan può tornare su Musacchio? In questo momento sì, perché se prima il Villarreal aveva chiuso ad un'ipotesi perché non c'erano le condizioni per farlo, le condizioni di trasferimento, il Milan adesso può ribussare alla porta del Villarreal per Musacchio, questo è poco ma sicuro. Grazie Mario. Grazie a voi ragazzi, buon lavoro. Grazie. Ciao. Mario Giunta da Sky. Se io dico la mia opinione, credo che creo subito un po' di... però è un grande giocatore, quindi io non posso entrare nelle decisioni della squadra. È un grande giocatore, è giovane, a me piace molto come calciatore, poi le decisioni della squadra saranno quelle che la proprietà farà. Possiamo dire che da tifoso le piacerebbe che restasse, però. Da tifoso tutta la vita vorrei che rimanesse, un grande giocatore, ha dato molto all'Inter, può dare ancora molto, io spero che lo dia all'Inter e non a altri. Questo Tronchetti Provera del Rio de Janeiro su Mauro Icardi. A proposito di Rio de Janeiro, vi ricordo dalle 18 alle 20... tutti convocati alle Olimpiadi, con Carlo Genta, con Leo Turrini, con Dario Ricci, il nostro appuntamento dedicato alle Olimpiadi. 800 24 00 24, Carlo. Sì, eccoci. Buongiorno. Dai. Volevo fare una domanda, una considerazione. Allora, i cinesi hanno preso in fronte che la società che dice i diritti televisivi, giusto? Sì. Per quanto riguarda le squadre di calcio. Comprato l'Inter e adesso addirittura il governo cinese che viene a comprare il Milan. Sì. Non è una combinazione un po' particolare, un po' strana? In che senso? Quasi ci sia un progetto. Ma c'è un progetto. C'è un progetto ed è un progetto dichiarato. Di acquisire il mercato, il calcio italiano? Sì, ma non solo il calcio italiano, il calcio europeo, Carlo, perché contestualmente stanno investendo anche altrove. Quest'estate si sono mossi anche in altri campionati su un livello inferiore rispetto a quello che può essere il nome di Inter e Milan, ma si sono mossi, c'è un progetto, la Cina vuole nel 2030 ospitare i mondiali e possibilmente vincerli, e quindi ha investito e investirà miliardi di dollari, miliardi di euro per cercare di creare un movimento che possa essere competitivo in patria e anche andando a portare i soldi fuori. Questo è un progetto che è nato e diciamo che in questo momento l'Italia è fortunata a poter vendere qualcosa. Alberto. Pronto? Eccoci. Sì. Io sono un po' perplesso su questa cosa qua dell'investimento dei cinesi nel Milan. Alberto, però tu stai parlando in viva voce. No, assolutamente. O con l'auricolare? No, non è nulla, con il telefono. Vabbè, allora parla un po' più forte, prego Alberto. Forse si sente male. No, la mia domanda è questa. Ma quell'impegno che si sono assunti di spendere 300-350 milioni, diciamo così, nell'arco del biennio, presumo in acquisto di giocatori, ma e se questo non viene portato a termine, ci sono delle penali, non so. Alberto, non credo. Il comunicato dice 350 milioni di euro nell'arco di un triennio, di cui 100 da versare al momento del closing. Quindi stiamo parlando di novembre. Lo spiegava prima Marco Bellinazzo. Non vanno intesi come investimenti tutti per il mercato. Sono soldi che vengono messi dentro il Milan sotto forma di aumento di capitale, di investimenti che serviranno anche per il mercato e che serviranno un po' come quelli che ha messo Suning nell'Inter, 142 milioni di euro per dare ossigeno al bilancio e per dare possibilità di movimento. Credo che di questo stiamo parlando. Difficile che esistano penali. Gerardo? No, Gerardo è caduto. Nicola? Pronto? Dai Nicola. Guardi, io sono un po' lontano da queste critiche, non sono un tifoso nel senso stretto del termine. Però per me il calcio è passione e identità territoriale, e allora non riesco a capire come si possa superare questa passionalità immolandolo sul piano della, dell'economia. Guardi, a me viene in mente una cosa. Tempo fa sembra che ci sia stata una richiesta da parte dell'Inghilterra di fare un'esibizione del Palio di Siena. Beh, è stato rifiutato, no? Tranquillamente, non nemmeno a pensarci, proprio perché l'identità territoriale e la passione non ha prezzo. Ora, per me il calcio resta agganciato ad una identità territoriale, ad una passione, ad un orgoglio, e svilirla nel modo in cui si sta facendo con queste discussioni che, di finanza, che in realtà sono lontane dal mio modo di pensare, hanno la loro validità, hanno le loro necessità internazionali e mondiali, però sono lontane dal mio modo di pensare, però sviliscono la natura del calcio. Ora, vorrei pensare, si è mai pensato... Sì, vorrei fare una domanda. Hai mai pensato di vendere il Palio di Siena, per dire, no? Per no, dire, il Palio di Siena no. Le grandi società di calcio sì, ma non solo in Italia però, Nicola. A parte Real Madrid e Barcellona, che hanno un legame fortissimo con il territorio, il Barcellona poi è una squadra Stato, tutti gli altri grandi club europei più o meno fanno... oramai parte di ragionamenti di alta finanza che non necessariamente riportano al tessuto sociale ed economico del territorio da cui nascono, e in questo Inter Milan non fanno nient'altro che inserirsi in questo discorso, e rimane la Juventus, che è una meravigliosa anomalia e che gli Agnelli, la famiglia Agnelli, tengono a 90 anni e che sta cercando di inserirsi nell'elite europea, ma rimane, ripeto, un'anomalia, come un'anomalia sono Real Madrid e Barcellona. Piaccia o non piaccia, il nuovo calcio porta ai capitali che vengono dal petrolio, dalla Cina, dal gas, magari dal Nord America, e però sono i capitali che servono per fare delle grandi squadre. 800 24 00 24, c'è il traffico, poi andiamo in Inghilterra, dove domenica ricominciano a giocare. Qui si fa fatica, ragazzi. Tutti convocati. Tutti convocati. We are going to sign one more player, that's for sure. I don't want to speak about Paul because he's a Juventus player and I don't like other managers to speak about my players. I don't speak about their players, but the reality is that we are going to sign one more player. The market closes, as you know, 31st of August, so we have plenty of time to do that, but obviously I would like to do it before the Premier League starts. Questo era Mourinho su Pogba, anche se non viene mai citato. Dice: io non parlo di giocatori di altre squadre e per il momento lui è un giocatore non del Manchester United, ma nei prossimi giorni sono sicuro che annunceremo un grande colpo, e insomma, l'abbiamo sentito prima anche da Mario Giunta, tutto porta a Pogba. E intanto domenica il Manchester United contro Leicester giocano la prima partita della stagione. Riccardo Mancini da Fox Sport, ciao Riccardo. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Bella partita che segna sempre l'inizio della stagione inglese, nella quale José Mourinho arriva da virtuale carcerato. Io non so se hai visto oggi le prime pagine dei giornali inglesi per la vicenda di Schweinsteiger. Sì. Il Sun addirittura ha fatto questo fotomontaggio con Mourinho dietro le sbarre. Beh sì, è successo questo, spieghiamolo per chi non lo sapesse, perché l'agente di Schweinsteiger si è vestito, peraltro lui è un legale, quindi fa questo di mestiere, chiedendo di fatto 3 anni di carcere per José Mourinho. Perché? Vi chiederete voi, perché non sta trattando benissimo un giocatore del calibro di Bastian Schweinsteiger. È vero questo, però riallacciandomi al tuo discorso, è anche vero, e non è una giustificazione per Mourinho, però è un dato di fatto, questo può essere visto come un fattore di grande programmazione per il Manchester United, di volontà di fare scelte molto forti, come può essere vista e letta tranquillamente questa. È vero, è un po' esagerato per come se ne è uscito l'agente di Schweinsteiger, però la realtà è che Mourinho sta portando decisamente un'altra mentalità, o meglio, forse la sta rispolverando dopo un po' di anni, un po' così, no? Sì, forse è anche un po' esagerato mandare Schweinsteiger, che è un campione del mondo, ad allenarsi, armadietto compreso, con le giovanili, però questo è Mourinho. Cioè, noi in Italia lo conosciamo, chi lo ha vissuto lo conosce, e ci si chiede anche cosa ci sia da stupirsi. Beh sì, perché Mourinho ha sempre fatto un po' quel che ha voluto, no? Ha sempre voluto dal canto suo imporre il suo volere, ma diciamo che è vero, per alcuni può risultare antipatico, anzi forse per molti, forse per la maggior parte delle persone, però è anche vero che lui i risultati così facendo li ottiene. Può essere antipatico, sì, però spesso i vincenti sono antipatici. Lui è un vincente, lui sta portando a Manchester la sua mentalità, che come detto a Manchester stava mancando, perché sia con Moyes che con Van Gaal diciamo abbiamo assistito a dei Manchester United decisamente diversi rispetto a quelli di Ferguson, ma non tanto, o meglio, non solo dal punto di vista tecnico e tattico, ma anche dal punto di vista della forza, della mentalità che la società ha avuto, perché un comportamento del genere, un atteggiamento del genere come quello di Mourinho naturalmente influisce anche a 360 gradi, non solamente sul campo e sui suoi giocatori, no? Sì, domenica ore 17, Community Shield, che racconterete in diretta su Fox Sport, prima occasione per tornare ad aprire la bacheca di Mourinho, anche se noi col cuore siamo tutti con il Leicester di Ranieri. Sì, siamo tutti con il Leicester di Ranieri, così come è successo lo scorso anno, no? Perché poi è stato bello raccontare da parte nostra una favola che poi si è trasformata fortunatamente in realtà. Però è vero, come dice Ranieri in conferenza stampa alla vigilia di questo match, che Leicester parte da underdog, ed è giusto che parta così, perché vabbè, sappiamo insomma della forza delle alte ormai contendenti al titolo per la prossima Premier League, però è anche vero che Leicester non deve perdere la sua identità di squadra, di gruppo, quello che poi di fatto ha fatto la differenza lo scorso anno, perché senza questo tipo di aspetto Leicester probabilmente non sarebbe mai arrivato così in alto, perché non possiamo nascondercelo, il Leicester non è dal punto di vista tecnico, e non lo scopriamo di certo oggi, il Chelsea, il Manchester United stesso, il Manchester City eccetera eccetera, però è una squadra che ha lavorato tutta nella stessa direzione. Una cosa che mi ha colpito molto in questo precampionato è che Leicester di fatto contro il PSG per esempio, che ha perso 4-0, ha dimostrato di non essere squadra, e mi ha colpito molto la dichiarazione di Ranieri in cui ha detto: con il PSG non siamo stati squadra, ma con il Barcellona, pur perdendo 4-2, io ho rivisto comunque qualche sintomo della mia squadra, quella che lotta tutta per un unico obiettivo, quella che lotta soprattutto tutta nella stessa direzione, e questo sarà fondamentale soprattutto domenica, che come detto si affrontano squadre dal punto di vista tecnico e qualitativo molto molto sbilanciate. Sì, dove c'è una profonda differenza, scrive un amico: con Leicester di Ranieri sei tu e i tuoi amici, forza United, forza José Mourinho. Ma sì, per carità, poi con il Leicester sono anche i bookmaker inglesi che hanno detto che Ranieri sarà il primo allenatore esonerato della stagione, e non sarebbe però il primo allenatore campione d'Inghilterra esonerato l'anno dopo, perché è stato preceduto da José Mourinho l'anno scorso. Grazie Riccardo. Grazie a voi ragazzi, un saluto. Grazie Riccardo Mancini. Domenica ore 17, Manchester United Leicester, Community Shield. Andrea da Padova: intanto c'è qualcuno che scrive che farebbe il palio di Siena con i go-kart, ma per carità. Beh, Andrea da Padova, buongiorno. Volevo un vostro parere su quello che sta succedendo al Milan, e in particolare su come la stampa ha trattato l'argomento, non ultima il titolone della Gazzetta di ieri, che l'ha centrata perfetta. Sì. Tutto qua, grazie. Bah, sai Andrea, ognuno pubblica le notizie che ha e che certamente ha verificato, quindi non si tratta di dire chi ha fatto giusto e chi ha sbagliato. Quello che vi ha spiegato Bellinazzo anche prima è che sono stati due anni complessi da raccontare, questi delle varie trattative che alla fine hanno portato alla cessione del Milan. In anni complessi si possono anche commettere errori, e si possono dare magari alle volte per chiuse cose che chiuse non sono o in fase di chiusura. Questo è Massimo dalla provincia di Varese. Sì, ragazzi, buongiorno. Non vi nascondo, intanto complimenti per la trasmissione. Che sentire parlare di tutti questi milioni mi è venuto il mal di testa, ci metteremo una vita a contarli, sì. Tutti. La riflessione e la domanda secca è la seguente, ma con questi ingaggi degli allenatori, anche italiani, dei giocatori, ma quel famoso fair play finanziario non se ne parla più? No, se ne parla e come? I maxi ingaggi li danno squadre che hanno maxi fatturati. Il Manchester United si avvia a essere la squadra con il fatturato più alto del mondo. Non accadrà nel 2016, accadrà probabilmente nel 2017 se ci sarà il rientro nel giro della Champions League, ma così è, e quindi con quei fatturati ci si può permettere anche di dare quegli ingaggi. Barcellona e Real Madrid fatturano ormai sopra i 600 milioni di euro, e così Massimo si può anche garantire a Cristiano Ronaldo, notizia di queste ore, un rinnovo fino al 2021, quando Ronaldo avrà 36 anni a 21 milioni di euro a stagione, cose impensabili in Italia almeno per il momento, ma se tu fatturi oltre 600 milioni di euro ti puoi permettere anche di fare queste operazioni. Maurizio da Cremona. Sì, salve, buongiorno. No, volevo tornare all'acquisizione da parte cordata cinese, insomma, del Milan, eccetera. Sì. Per fare la considerazione sul fatto che si acquiranno in questo modo, cioè prima l'Inter, poi il Milan, le differenze, diciamo, fra squadre, diciamo, titolate e le squadre minori. Quindi questo è un calcio che comunque via via aumenta quella che è la differenza, no? Perché è evidente che le squadre grosse in mano a questi grossi imprenditori, eccetera, eccetera, avranno ancora più possibilità, no? Quindi di investire, di avere squadre forti, eccetera, eccetera. Volevo sapere cosa sì, ne pensavate. Maurizio, però perdonami, resta lì. Non è da oggi, non è per l'arrivo dei cinesi. Dagli anni 90 ad oggi soltanto le due romane, e a prezzo di rischiare il crack, sono riuscite a inserirsi nello strapotere a cicli di Juventus, Inter, Milan. È così ed è così non solo in Italia, ed è così non solo perché arrivano i soldi da fuori. Alfonso, dai, togli un'altra bufala qua. Un'altra bufala? Io ho l'impressione che sia un'altra bufala. Lei che mi dice? No, io tendo a fidarmi dei comunicati ufficiali. In questo caso di Fininvest. Non c'è niente ancora, no? No, c'è un comunicato ufficiale di Fininvest che dice che l'amministratore delegato ha firmato un preliminare con un gruppo cinese, che Silvio Berlusconi ha dato il suo preliminare, mette alcuni nomi e mette alcune cifre e alcune tempistiche. Poi noi restiamo qui, noi siamo in onda oggi dalle 18 alle 20, quindi se cambia qualcosa ve lo raccontiamo. Siamo in onda tutto agosto, tutto settembre, ottobre, novembre, e saremo qui ad aspettare anche la firma del closing, Alfonso, speriamo di no, speriamo che non sia una bufala. Io mi fermo qui, ringrazio Giovanni Melchiori, autore di questa puntata, Alvise Falzone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Vi ricordo l'appuntamento alle 18 con Carlo Genta, Leo Turrini, Dario Ricci, con tutti convocati alle Olimpiadi. Ciao. Pisa il rosso, devi pisa stop, sennò il video va avanti 4 ore. Dai!